proverò ad avvicinarmi al problema con la dovuta gradualità. Dunque, gli esseri umani depositano i propri escrementi in luoghi che, vabbè, come notava Nora Galli de Paratesi nella sua classica semantica dell'eufemismo, ricadono questi luoghi sotto interdizione scatologica. Verrebbero chiamati questi luoghi, servendosi di argute metafore e badando bene a non nominare l'autentica funzione che in tali luoghi si svolga. Per esempio si dice latrina, che viene però dalla latrina e che allude palesemente a lavarsi. Si dice gabinetto e si allude alle dimensioni del luogo, un luogo piccolo. Si crede di osare chissà chi, magari dicendo cesso, e invece si allude semplicemente ad un luogo appartato, o più o meno come nel caso della ritirata di antica e collegiale memoria. Si dice bagno, vado al bagno, e ci si riferisce chiaramente a tutt'altra funzione. Gli esterofili potranno dire water closet, o più brevemente il WC, ma alluderanno ad un piccolo ambiente in cui ci sia dell'acqua, oppure approfitteranno di toilette, un francesismo che tuttavia sta chiaramente per piccola tela, toilette, piccola tela, una piccola tela ove le signore della buona società di un tempo non depositavano affatto i propri escrementi, bensì il necessario per la manutenzione della propria carrozzeria, oggetti di cosmesi, diciamo. Nessuno ovviamente farà più ricorso alla circonlocuzione vado a far compagnia al duca d'Aumale, in uso ai tempi di Proust e della sua recherche, che recherche comunque era del tempo perduto e non di una toilette. Pochi, forse pochissimi, si affideranno più ai numeri, al fatidico numero 100, dall'antica usanza alberghiera di contrassegnare questo tipo speciale di camere, o alla scorciatoia rappresentata dallo 00, che nel numero 100 per l'appunto seguono l'1. Il tabù sociale, insomma, è talmente forte che non siamo mai riusciti a produrre una parola dotata di un minimo di appropriatezza per designare ciò che deve designare. Per chi essere umano non è, ma è ugualmente dotato di escrementi di cui periodicamente disfarsi, a meno che sia un computer o una rete neurale, il problema rimane. Si prenda il gatto, per esempio. Si prenda il gatto. Dove rilascia il frutto del suo metabolismo? Ad arretta la pubblicità del Katsan, nome che suggerisce energia e salute al nostro domestico felino, il luogo in cui gli escrementi vengono depositati si chiama lettiera, come quello strato di paglia e di fogliame vario che l'animale di stalla usa come giaciglio, ma provatevi a dire al vostro gatto di andarci a dormire. Anche per loro dunque vale l'interdizione scatologica. L'uomo estende anche agli ignari antropomorfizzati che vivono con lui i suoi stessi tabù. Non solo. A dare ancora retta al Katsan, l'uomo per i gatti va anche più in là. Infatti non solo la lettiera ove deposita gli escrementi il gatto non si chiama semplicemente lettiera, ma si chiama più esattamente lettiera igienica, ma grazie a Katsan assorbe l'odore prima che si sviluppi. Dichiarazione testuale. Implicito che si tratti dell'odore degli escrementi e non di quello delle brioche, come penserebbe subito la povera Maria Antonietta. Anche se il modello epistemologico in atto ricorda molto da vicino quello dello Stato italiano, che tassa il cittadino sul reddito presunto, va detto che un'invenzione del genere mina alle fondamenta i già fragili statuti della fisica contemporanea. Prima di oggi si era sempre pensato che escremento ed odore relativo vivessero in una sorta di consustanzialità inscindibile. Come usciva l'uno, eccoti l'altro. Oggi, invece, Forse per effetto di un aspetto trascurato della relatività einsteiniana, si è trovato il sistema di separarli e addirittura di invertire il senso tradizionale del rapporto causale. Prima c'è l'odore, che si imprigiona subito in potenza, poi c'è l'escremento, che, deprivato dell'antica qualità perniciosa, ormai in via di assoluzione di fronte al tribunale della storia, pare destinato a luminosi destini. Stanno per farceli mangiare. When the sun is high in the afternoon sky, you can always find something to do. But from dusk till dawn, as the clock ticks on, something happens to you.